se parli di noi o non parli di niente. Soldi dentro i bomber, interni a raccione. Se poi parlano troppo finiranno in malora. Fumo così tanto, bling bling che mi aspetta. Ecco la Dark pronta a prenderci Roma. Alla mia click frega un cazzo, mi ammampamo da terra. Vuoi fottere me, sei fuori di testa. La mia collana fa bling bling, black team dark. Macchie di sangue sulle facce bianche, sembra la pink pop. Vedi fottere la Dark, stai fuori con la Dark. Stai fuori, rotto il passamontagna quando sto nella Dark. Cuscio olandese chiama la Van Persie. Fra un giro d'applausi per la tua tipa, tipo clap clap clap. Sei un finto mostro come quelli di Scooby-Doo. La ganga, le masse giuste come un rito voodoo. Bambole voodoo, 100 milioni in cash come Gary. Se mi vuoi sulla traccia non parlare, mi parla bene.